vivo il disagio italiano in prima persona. Il portafoglio vuoto e la felicità in coma. E là fuori sono tutti contenti. Hanno tutti la faccia da poveri dementi. C'hanno il pane ma non c'hanno più i denti. Siamo costretti tutti a fare i pezzenti. Non mi va più di sentire frasi fatte rassicuranti. Voglio solo erba e non più cuori infranti. Io ho scelto di vivere senza rimpianti. Ma la realtà che mi spaventa quasi chiama società. In cui vedo più merda che onestà. Berlusconi ci ha rotto un po' troppo i marroni. Illusioni come l'amore, come ti amo, che sono più falsi delle magie di Dynamo. Ma con Merlino lo spread da Berlino, l'Italia che sbanda e fuma la ganja. Come sentire del male, fra chiamarmi compare. Dammi una mano, c'è buchi nei palmi, Cristo riappare. L'Italia di molti si vale coi tacchi, l'Italia puttane. Schiavo diverso dagli altri, fra i dossi pinzagli da cane. Un po' poco rotto la chiesa col soldi, col sangue di Cristo marchiato. Intanto la notte un serpente mi morde, sangue che brucia scontato. Vesti per bene ma rubi, stanotte mica ti scopa che rubi. Non parlo dei cubi, la strada è lontana e togli sti scudi. Volete la pace, il governo che cade, calpassi sto fiore. Un conto in banca malato, fra soffre con fiore. Indosso vestiti, grazie a mio padre si spacca la schiena, non come te che spacchi l'Italia. Il mondo è un'arena, tu imperatore, io gladiatore. Intanto l'Italia che sembra, i miei testi violenti, piano il governo ti fotte e ti smembra. Non esiste un colpevole, la massa che tace ma brucia. Gli piace essere stronza, fra d'un posto non si rinuncia.